nel nostro percorso di contemplazione dell'umanità di Cristo, di Gesù, che ci aiuta a meditare sul mistero dell'incarnazione, che ecco, con il quale il Signore torna a dirci che è buona la creazione, no? Diciamo oggi, rileggevamo oggi quei passi della Genesi, in cui il Signore, avendo creato l'uomo e la donna, disse che era cosa molto bella, molto buona, no? E il Papa Giovanni Paolo II, nella Redentor Hominis, dice tante cose belle su Gesù, e comunque, ecco, dice: quando attraverso l'esperienza della famiglia umana in continuo aumento a ritmo accelerato penetriamo nel mistero di Gesù Cristo, comprendiamo con maggiore chiarezza che alla base di tutte queste vie lungo le quali, conforme alla saggezza del Pontefice Paolo VI, deve proseguire la Chiesa dei nostri tempi, c'è un'unica via, è la via sperimentata da secoli ed è insieme la via del futuro. Cristo, Signore, ha indicato questa via, soprattutto quando, come insegna il Concilio, con l'incarnazione il Figlio di Dio si è unito in un certo modo ad ogni uomo. Si è unito in un certo modo ad ogni uomo. E questo è un grande mistero, no? A volte noi nell'esprimere la nostra fede, perché sottolineiamo, ecco, il salto di qualità, la novità, giustamente, no? Del battesimo. Però è vero che l'incarnazione di Cristo ha portato Dio a unirsi, essendo diventato membro di un figlio di donna, è diventato uno di noi, quindi in qualche modo si è unito ad ogni uomo. In questo senso è il nuovo Adamo, no? E Gesù Cristo diventa presente con la potenza di quella verità e di quell'amore che si sono espressi in lui come pienezza unica e irripetibile, benché la sua vita intera sia stata breve e ancora più breve la sua attività pubblica. Gesù Cristo è la via principale della Chiesa, egli stesso è la nostra via alla casa del Padre ed è anche la via a ciascun uomo. Chi di voi appunto ha vissuto il pontificato di Giovanni Paolo II nella pienezza, come è successo a me, no? della giovinezza, cioè ci ricordiamo questo insegnamento, no? Che Gesù Cristo parla ad ogni uomo, no? Si unisce ad ogni uomo. La Chiesa non può essere fermata da nessuno. Questa è l'esigenza del bene temporale, del bene eterno dell'uomo. La Chiesa, per riguardo a Cristo e in ragione di quel mistero che costituisce la vita della Chiesa stessa, non può rimanere insensibile a tutto ciò che serve al vero bene dell'uomo, così come non può rimanere indifferente a ciò che lo minaccia. Qui si tratta dell'uomo in tutta la sua verità, nella sua piena dimensione. Non si tratta dell'uomo astratto, ma reale, dell'uomo concreto, stoico. Si tratta di ciascun uomo, perché ognuno è stato compreso nel mistero della redenzione e con ognuno Cristo si è unito per sempre attraverso questo mistero. Ogni uomo viene al mondo concepito nel seno materno, nascendo dalla madre, ed è proprio motivo del mistero della redenzione che è affidato alla sollecitudine della Chiesa. Tale sollecitudine riguarda l'uomo intero ed è incentrata su di lui in modo del tutto particolare. L'oggetto di questa premura è l'uomo nella sua unica e irripetibile realtà umana. in cui permane intatta l'immagine e la somiglianza con Dio stesso. Il Concilio indica proprio questo quando, parlando di tale somiglianza, ricorda che l'uomo in terra è la sola creatura che Dio abbia voluto per se stessa. Tutte le altre creature sono viste anche in vista dell'uomo, a servizio dell'uomo. L'uomo così come è voluto, invece l'uomo è stato creato a immagine e somiglianza di Dio, così come è voluto da Dio, così come è stato da Lui eternamente scelto, chiamato, destinato alla grazia, alla gloria. Questo è proprio ogni uomo, l'uomo il più concreto, il più reale. Questo è l'uomo in tutta la pienezza del mistero di cui è divenuto partecipe in Gesù Cristo, mistero del quale diventa partecipe ciascuno dei 4 miliardi di uomini viventi sul nostro pianeta, no, adesso sono di più, dal momento in cui viene concepito sotto il cuore della madre. Mi piaceva moltissimo a Giovanni Paolo II segnalare così, no, il tempo del nostro concepimento, sotto il cuore della madre. La Chiesa non può abbandonare l'uomo, la cui sorte, cioè la scelta, la chiamata, la nascita, la morte, la salvezza o la perdizione sono in modo così stretto e indissolubile unite al Cristo. Voi vedete come, con stile diverso, con parole diverse, però qui c'è anche la premessa, una delle premesse teologiche a quella spinta del Papa Francesco ad uscire verso ogni uomo. Ogni uomo è unito a Cristo, ogni uomo è chiamato da Lui, è creato da Lui, è destinatario, no, di questa. Ricordo che sempre Giovanni Paolo II diceva, proprio nella Christi Fidelis Laici, diceva: la Chiesa è debitrice ad ogni uomo di questo messaggio: Dio ti ama. E ogni uomo è destinatario del kerygma, cioè di quell'annuncio semplice, essenziale, in cui noi diciamo. Conviene che gli diciamo, Dio vuole che gli diciamo che Dio esiste, che Dio si è fatto uomo in Cristo, che Dio ci ha salvati attraverso la sua morte, la sua risurrezione, che Dio lo ama. No? E Papa Francesco proprio ci incoraggiava nell'Evangelii Gaudium ad evangelizzare, a partire dal nostro incontro con Gesù, la prima motivazione per evangelizzare è l'amore di Gesù che abbiamo ricevuto, l'esperienza di essere salvati da Lui che ci spinge ad amarlo sempre di più. Però che amore è quello che non sente la necessità di parlare della persona amata, di presentarla, di farla conoscere? Se non proviamo l'intenso desiderio di comunicarlo, abbiamo bisogno di soffermarci in preghiera per chiedere a Lui che torni ad affascinarci. Abbiamo bisogno di implorare ogni giorno, di chiedere la sua grazia perché apra il nostro cuore freddo e scuota la nostra vita tiepida e superficiale, posti dinanzi a Lui con il cuore aperto, lasciando che Lui ci contempli, lo dicevamo questa mattina. Riconosciamo quello sguardo d'amore che scoprì Natanaele il giorno in cui Gesù si fece presente e gli disse: io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Che dolce è stare davanti a un crocifisso o in ginocchio davanti al Santissimo, e semplicemente essere davanti ai Suoi occhi. Quanto bene ci fa lasciare che Egli torni a toccare la nostra esistenza e ci lanci a comunicare la sua nuova vita. Dunque, ciò che succede è che, in definitiva, quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo. Ecco. Nel cammino di contemplare l'umanità di Cristo e anche di ripercorrere la storia della nostra conoscenza di Lui, del nostro amore, della nostra storia d'amore con Lui, mi piace soffermarmi un po' su questo aspetto dell'udire la sua voce. forse ci può aiutare considerare come la voce di Cristo aiuta, di Cristo risorto aiuta Maria a riconoscerlo. All'inizio forse, all'inizio no, ma perché non immaginava neanche lontanamente che Gesù potesse essere risorto. Vede gli angeli e neanche quelli riescono a consolarla. Le dissero: donna, perché piangi? Rispose loro: hanno portato via mio Signore, non so dove l'hanno posto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Quindi lo guarda, lo vede, ma non è sufficiente perché, forse perché Gesù, ecco, un po' perché non c'era l'aspettativa che fosse risorto. E forse anche perché Gesù nel risorgere è cambiato un po' o cambia a seconda dei momenti in cui appare e qualcuno ha detto e mi è piaciuto, forse perché Gesù fa capire che il risorto sta in ciascuno di noi, quindi è presente in ciascuno di noi, quindi con volti diversi. Ella pensando, e le disse Gesù: donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, io andrò a prenderlo. Gesù le disse: Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico: Rabboni, che significa maestro, maestro mio. Gesù le disse: non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vado ai miei fratelli e di loro salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Io mi spiego questo non mi trattenere, nel senso che comprendo che Maria si sia lanciata verso di lui, l'abbia abbracciato, no? E Gesù la vuole aiutare a comprendere che adesso ci sarà, deve abituarsi a un altro rapporto con lui, che non esclude, anzi, anche questa fisicità, no? Però deve esercitarla più nella chiesa, con i suoi fratelli. Gesù è in loro adesso, no? Deve abituarsi a non poterlo vedere più, a non poter ascoltare più la sua voce, però in quel momento la voce di Gesù è stata decisiva perché lei lo riconoscesse, perché lei comprendesse veramente che Gesù è risorto. Allora la voce di Dio è presente in tutto l'Antico Testamento, no? E anche all'inizio della Genesi Adamo si nasconde alla sua voce, no? Dopo il peccato. Mosè ascolta la sua voce dal roveto ardente. I profeti ascoltano la sua voce. Il deserto, nell'ebraico si chiama il luogo della parola, no? È il luogo dove si ascolta la voce di Dio. Però questa voce che indubbiamente si faceva sentire a volte dai profeti, dai patriarchi, no? E spesso invece utilizzava gli angeli, cioè i messaggeri, no? Per non spaventare. Mosè si spaventa davanti al roveto ardente quando sente la voce del Signore e si getta a terra perché sono convinti loro che nessuno può vedere Dio se non dopo la morte, no? Che vedere Dio comporta la morte, invece in Gesù noi lo abbiamo visto, abbiamo visto il volto del Padre, abbiamo ascoltato la sua voce. La voce di Dio prende il tono di una voce umana. E gli evangelisti sono consapevoli che non possono ridarci la voce di Gesù, perché che è comunque una voce di uomo, una voce unica e inconfondibile. Com'è la voce di ciascuno di noi? E è una voce che sa parlare a tu per tu e che sa anche gridare, no? Nel giorno della festa dei Tabernacoli, quando tutta la folla sottovoce faceva un gran parlare di lui, e poi l'ultimo giorno, quando lui si rivela, dice il Vangelo di Giovanni, Gesù ritto in piedi gridò: se qualcuno ha sete, venga a me e beva, chi crede in me, come dice la scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Quindi Gesù con la sua voce sa avere tutti i toni della voce dell'uomo, a volte è voce, solenne, a volte è voce confidente, a volte è voce arrabbiata, a volte... E lui stesso, il Vangelo di Giovanni e anche gli altri Vangeli parlano della voce di Gesù, parlano anche della voce di Dio che si presenta, no, nelle teofanie, no, nel battesimo e nella trasfigurazione. E Gesù parla della sua voce in modo particolare nella parabola del buon pastore, no? Il guardiano. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore, il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce, egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. Effettivamente i pastori, è frequente in tante culture, che sanno dare un nome alle pecore, le sanno anche riconoscere, perché pur essendo per noi tutte uguali, no? Però loro hanno un nome, no? Le pecore, anche le mucche, ci sono pastori di mucche che danno il nome alle sue. Mi ricordo sempre un amico che fece l'alpino, e l'ufficiale alpino, e allora tra i suoi soldati c'era uno che portava nel portafoglio la foto della mucca preferita e aveva un nome, no? Quindi effettivamente per noi che siamo cittadini, perlomeno io, andiamo lì, anzi abbiamo un po' di timore di queste mucche che... A me è successo una volta, ma che poi ti inseguono se il pastore le lascia senza sale, perché leccano il sudore, cercano di nutrirsi, ecco, di quel sale di cui hanno bisogno. Però appunto per noi sono tutte uguali, invece per il pastore ciascuna è diversa. E loro, ecco, io questo l'ho imparato non per esperienza personale, le pecore in particolare hanno un campo visivo molto limitato, per loro è molto importante la voce del pastore, anche il bastone del pastore, no? Quel Salmo 23, il Signore è il mio pastore, no? Non manco di nulla, su pascoli erbosi, no? E mi fa riposare, se anche vado in una valle oscura, no? Non temerò alcun male. Pensate, per le pecore che hanno questo campo visivo molto limitato, la valle oscura è ancora peggio, no? Il buio. Però il pastore le aiuta sia con il battere dei suoi passi, col battere del suo bastone, il suo vincastro, no? Mi danno sicurezza, il suo bastone, il suo vincastro. C'è un'ottima psicologia delle pecore, no? Nel salmista, conoscenza senz'altro di questo mondo. E le pecore effettivamente riconoscono la voce del buon pastore, la voce di un altro non la seguono, hanno paura. E anche tra di loro la pecora può riconoscere il belato del suo agnellino. Tra tantissimi, e viceversa, sono meraviglie della creazione, no? Sono segni, se volete, della grandezza, della paternità di Dio, che troviamo anche nelle sue creature, no? Il guardiano li apre, le pecore ascoltano la sua voce, gli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, le conduce fuori e quando ha spinto fuori tutte le sue pecore cammina davanti a esse e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Io sono il buon pastore, no? Che dà la propria vita per le pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Pensate alla voce di Gesù bambino, no? Gesù bambino che ha percorso tutti i percorsi che noi percorriamo da bambini, ecco, cominciamo con il pianto, con i versi, che papà e mamma ascoltano e capiscono e poi interloquiscono con noi, a volte con parole che noi neonati non comprendiamo, altre volte con il giocare con noi con gli stessi versi per manifestare l'amore. E il bambino indubbiamente che ha una voce unica, perché ogni uomo ha una voce assolutamente unica, il riconoscimento vocale è come quello delle impronte digitali o dell'idea, cioè c'è qualcosa di assolutamente unico, però indubbiamente si forma nell'ambito di una famiglia, quindi abbiamo un'eredità dai nostri genitori, quindi, e poi li ascoltiamo e quindi nella nostra voce senz'altro ci sono gli accenti dei nostri genitori, quindi nella voce di Gesù ci sono modi di dire, modi e tonalità della voce, perché noi anche imitiamo gli altri, no? Dipende dall'ambiente in cui siamo, prendiamo un po' il tono di quell'ambiente, ambito geografico, di quel luogo in cui viviamo, quell'accento, sono le tonalità delle voci di Maria e di Giuseppe nella voce di Gesù. E noi certo ci immaginiamo che la voce di Gesù per Maria, di Magdala, per i suoi discepoli sia una voce ovviamente inconfondibile e che loro non possono passarci, anche se voi pensate che sapete cosa significa. Dal punto di vista etimologico, catechesi, no? Significa, viene dal greco kateko, che significa secondo l'eco, secondo l'eco. Noi nel trasmettere la voce di Gesù facciamo eco alla voce di Gesù. Pensate come si rovinano le parole, no? Lungo l'uso, lungo la storia, no? Catechesi, sì, comunque è bello pensare che la fede la si riceve, dice la tradizione della Chiesa, ex auditu, attraverso l'udito si riceve la fede. È la parola di Dio che noi ascoltiamo, è la parola che viene detta dagli apostoli, la parola che noi ascoltiamo nella predicazione. Abbiamo bisogno di ascoltare la parola. È la parola di un amico, no? Vi ricordate quel punto di cammino, no? Di San Cosimo? Quella parola lasciata scivolare all'amico, all'orecchio dell'amico che vacilla, no? Quella sapeva anche in un testo di San Cosimo Maria, usava questa espressione, la la tremenda parola soprannaturale, cioè nel senso non tremenda perché spaventa, ma perché ha in sé la forza di Dio, no? Quindi effettivamente a volte basta una parola, basta forse citare il nome di Dio, no? Mi ricordo sempre che una persona mi raccontò come passò dall'ateismo alla fede, cioè come fu per lui un terribile terremoto interiore ascoltare la parola Dio dalle labbra di un personaggio, e me lo ricordo sempre, era uno che poi era in piscina, uno che era sulla stessa corsia, per fortuna avevano tutti e due il fiatone, si fermarono alla fine di quella piscina, e quell'altro disse qualcosa, lui dice: io non mi ricordo nulla di quello che mi disse, però a un certo punto pronunciò la parola Dio, e per me fu come ricevere una botta in testa terribile, mi cambiò la vita, no? Poi col tempo scoprì che lo riconobbe, no? Perché lo riconobbe dai baffetti, no? Perché con gli occhialini, con la cuffia, piscina, no? E, appunto, ed era una persona dell'opera che stava nuotandone, che gli venne, non so cosa, come gli venne in mente di pronunciare la parola Dio, ma e cambiò la sua vita, no? Dio può fare queste cose. Oggi, quando abbiamo finito la meditazione sullo sguardo di Gesù, mentre mi preparavo per la messa, mi tornava in mente un episodio proprio, ecco, di un altro, questo è invece un altro personaggio, una persona che poi conobbe l'opera ed è dell'opera adesso, mi pare, non mi ricordo neanche chi sia, perché ho sentito raccontare da altri, il quale anche lui vive una situazione di ateismo, di mancanza di fede. Ed era a Londra per lavoro e non sapeva che in quel momento c'era il Papa Giovanni Paolo II. Uscendo dalla metropolitana, vide la folla, vide una macchina che passava, la Papa mobile, no? E guardò dentro a quella macchina sopraelevata, incrociò lo sguardo del Papa e quello sguardo, si guardarono negli occhi e da quello sguardo lui ebbe in dono la fede. Quindi per Dio, che è onnipotente, può bastare uno sguardo, può bastare una parola. Così Dio si manifesta a noi, attraverso il corpo di Cristo, attraverso la parola, attraverso lo sguardo, attraverso il gesto di una mano, attraverso una carezza, non so, attraverso un sacramento che usa tutte queste cose, usa il sacramento in genere la parola, la vista, la mano, e così il Signore entra nella nostra vita usando le modalità umane che Lui ha scelto e che sono molto adatte a noi, che siamo uomini creati da Lui in carne ed ossa. E vogliamo, Gesù, ascoltare la tua voce nella nostra preghiera. Vogliamo prestarti la voce là dove siamo, in mezzo al mondo, perché tu possa continuare, innalzato da terra, ad attirare a te tutte le cose e tutte le persone.